Oh, Thank you.

Thank you. segno di pietà trovato nel reo di Pilato. Ciò mi permette. Andiamo, se non è sicuro. Dentro sono essere